Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar! Eccoci in questo venerdì 25 di marzo, venerdì santo, Alessandro. Siamo in diretta? Siamo in diretta, no? Siamo in diretta, sì sì. Certo che siamo in diretta. Ah, noi siamo in diretta. Ma noi siamo in direttissima. Che ore fai Rito tu a Milano? Che ore fai? Tu sai che Milano non è la stessa ora del posto in cui sei tu. Adesso non fare battute, perché l'ora astronomica è leggermente diversa, perché noi al nord abbiamo una latitudine diversa, eppure abbiamo la stessa ora e quindi siamo in diretta. Alle 8, però siamo in diretta. 21 e 16 secondi. Siamo in diretta, eccoci. Sei pronto a questo sano venerdì di passione? Come no, come ecco, no, a cominciare dai santi. Pensa che c'è una singolarità, perché oggi è venerdì di passione, ma siccome sono esattamente 9 mesi da Natale, perché mancano 9 mesi da Natale, è anche il giorno dell'Annunciazione del Signore, quindi doppia festa liturgica, ma ciò malgrado ci sono tanti santi. E io devo dire la verità, io scelgo tra i tanti, poi ne cito alcuni, ma uno proprio te lo voglio ricordare, Alessandro, e anche raccomandarlo ai nostri ascoltatori, perché questo ex vescovo di Milano, di cui si festeggia oggi giorno come santo, si chiamava San Mona. Tu capisci che il vescovo di Milano, che si chiamava Mona, è santo, Milano, una di vita Milano, sicuro di, che è di Milano. No, assolutamente sì, ex di vescovo di Milano, San Mona. Ora, una vita di edificazione, sicuramente l'hanno fatto santo per esercirlo del nome che la mamma gli aveva dato. Può essere. Però io non sto scherzando. È una lettura che mi piace. San Mona, tra l'altro, poi oggi c'è anche un'altra, cara mogliettina in ascolto, un'altra Santa Margherita. Questa è una Santa Margherita. Regalo in arrivo. Clitterau, infatti, regalo in arrivo, martire in Inghilterra, Santa Matrona di Tessalonica, Santa Ermelando, Sant'Everardo, Sandula di Nicomedia, la Dula D-U-L-A. Mio padre mi dava del Gandula, ma ecco, ma questo cosa. È Sandula, poi San Dismar, San Procopio, e mi fermo qua perché ce ne sono altre ancora più. Ecco, nell'anniversario del giorno oggi, sentite, oggi è il compleanno di Mina, nata nel 1940. Qui non si discute, ci si inginocchia di fronte a Mina, come ai santi e come al venerdì di passione. Questa è la mia opinione, però anche di Elton John, che anche lui non è male, ecco. Elton John e Mina, beh, insomma, la musica è festeggia oggi. La musica festeggia. Allora, intanto 800240024 è il numero, visto che siamo in diretta, potete intervenire sugli argomenti che volete. Caro Oscar, so che sei felice. Sono felice. Oggi? No, perché oggi, ieri finalmente, cari ascoltatori, sì, tutti voi che avete il problema del canone infilato in bolletta per dare 300 milioni in più alla RAI, che è la nostra concorrente, però no, il problema è che siccome il canone in bolletta devono pagarlo coloro che hanno l'utenza elettrica che coincide con la residenza anagrafica, per milioni di italiani non è così, caro Alessandro, e quindi la paura era: si avvicinano i giorni in cui chiederanno i soldi, ma non ci hanno spiegato come facciamo a difenderci dallo Stato, perché noi non siamo in quelle condizioni. Ora, finalmente, cari ascoltatori, ieri è uscita l'istruzione su come fare, e quindi precipitatevi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove c'è anche il facsimile del modulo che potrete mandare in elettronico, e dovete sbrigarvi, perché l'autocertificazione bisogna farla entro il 10 maggio o il 30 aprile se la mandate per posta, cioè se la stampate dal computer, la compilate e la mandate per posta. Però tutti coloro che rientrano in 3 categorie la devono fare, perché a quel punto potete rifiutare il pagamento, contestarlo, asserragliarvi a casa con le mitragliatrici, mandare via i messaggi. No, come le mitragliatrici? No, vabbè, sto scherzando, però attenzione, perché bisogna farlo. Cioè, deve farlo chiunque non abbia un apparecchio televisivo, deve certificarlo. Chi se l'era fatto suggellare non ha l'apparecchio televisivo, seconda categoria. E terzo, soprattutto, questo riguarda milioni di voi in ascolto, quelli che hanno la residenza anagrafica che non coincide con l'utenza del canone, perché ci sono un mucchio di differenze nelle famiglie. Quindi andate sul sito, fatelo, non abbiate pietà nei confronti di chi non ne ha nei vostri confronti. È detto questo. No, ma se non lo fate davvero, poi dovrete pagare, passerà un mucchio di tempo, perché ci saranno comunque centinaia di migliaia di contestazioni. Quindi segnalazione di servizio. Vabbè, di servizio, insomma, diciamo che la tua campagna che hai lanciato anche qui, una campagna di come l'hai chiamata? Resistenza. Perché ricordiamoci sempre, cari ascoltatori, che il canone RAI nasce come tassa, perché a fronte di un servizio, però siccome lo Stato poi era in difficoltà, lo trasforma in un'imposta sulla proprietà degli apparecchi di ricezione e adesso lo annega in una tariffa. È una specie di miracoloso saltimbanco lo Stato, fa di una tassa un'imposta e anche una tariffa. A proposito di tasse, guarda che oggi Libero dice che arrivano le tasse sulle sigarette. Tra l'altro dobbiamo dire, l'avevo detto in rassegna stampa, oggi ci sono pochi quotidiani in edicola. Io, Libero, Il Foglio, Italia Oggi appunto, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, esatto, cioè questi grandi, qualcosa mi sfuggerà. Il giorno, Milano Finanza, che ha anticipato oggi l'uscita settimanale del Golfo Cicco. Esatto. Sono questi. Però Libero dice che sono più tasse sulle sigarette, caro Oscar. Raschiano sempre Libari. Mamma più mia, tasse per sulle fortuna sigarette. Fumo solo sigarette toscane, ma tanto li pagano anche lì. Le più tasse, beh, infatti, figurati, è una battuta un po' scampi, amara la mia. E devo dire, in quello forse lo Stato è la volta buona che mi dà la mano a fumare meno. Sì. Ecco. Però, caro Oscar, sai che oggi vogliamo affrontare un discorso che è un discorso molto serio, perché riguarda tutti noi, davvero, noi genitori che abbiamo figli, noi genitori che mandiamo i figli a scuola, sono un po' piccolini i nostri, sì, però il problema esiste. Riguarda le scuole, gli insegnanti, gli educatori, i ragazzi. Perché cosa è successo al Virgilio di Roma? Ne vogliamo salutare tra l'altro la preside che è con noi, Irene Baldriga, preside del Virgilio a Roma. Buongiorno professoressa Baldriga, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Qualche giorno fa, ci aiuti anche lei a capire quei fatti, ci corregga se sbaglio, c'è stato un, possiamo definirlo controllo. Sì, più corretto. Un controllo di agenti di polizia che durante la ricreazione hanno arrestato un ragazzo 19enne che spacciava droga all'interno della scuola. All'interno o all'esterno intanto? All'interno, nel senso che è stato colto nel cortile della scuola. Lui quella mattina non era entrato e quindi gli agenti lo hanno seguito e quindi l'hanno colto mentre appunto cedeva delle sostanze. Quindi hanno colto in flagranza di reato. Esatto. Sì. Arrestato e tra l'altro anche da minorenne, se non sbaglio, ha avuto qualche precedente di questo tipo. Sì. Cosa è successo però? Perché i giornali dicono gli studenti o alcuni studenti, ci aiuta a capire lei, a quel punto sono arrabbiati a dire la scuola non deve essere un posto dove entra la polizia a fare controlli antidroga. Esattamente, questo è quello che è accaduto, infatti questo è il tema del quale vale la pena dibattere, credo. Ovvero appunto un gruppo minoritario di studenti che appunto hanno deciso di manifestare in modo molto violento all'interno dell'istituto con dei cortei intonando cori contro la Digos, contro le forze di polizia, contro ovviamente la scuola, e diciamo è stato un momento di grande tensione che ha suscitato anche insomma una certa preoccupazione e paura, per cui a quel punto è stato anche necessario chiedere ai carabinieri di intervenire per riportare un po' di serenità, perché insomma ci siamo veramente molto preoccupati, hanno minacciato di occupare l'istituto. Un momento veramente di grande. Scusi, grande ma sulla tensione. Base di che cosa? Cioè, sulla base del fatto che la scuola deve essere un luogo di impunità? Cioè, ci faccia capire. Sì, purtroppo è proprio questo. Infatti, la questione è che ci sono degli studenti e evidentemente anche alcuni genitori, da quello che sembra, convinti che la scuola sia una sorta di terra franca, cioè un luogo dove le forze dell'ordine non possono entrare per alcun motivo. Quindi un luogo dove dovrebbe a loro giudizio esserci una condizione di impunità assoluta per gli studenti, e questo ovviamente è intollerabile. Chiaro Sai che Oscar, a me ha colpito una cosa, perché quando dice la professoressa alcuni genitori, è vero, cioè c'erano anche dei genitori oltre agli studenti, forse è più seria la questione o no? Beh, è seria comunque, perché il meccanismo di trasmissione delle idee evidentemente è la cosa che mi colpisce di più, devo dirvi la verità, perché chiunque è stato ragazzo in anni comunque molto diversi da questi, cioè quelli della durissima contestazione politica, più di tanto non si stupisce e sbaglia. Ha ragione, secondo me, il dirigente scolastico, il nostro ospite, invece a dire no. Sottolineiamo che è sbagliata anche l'opinione degli studenti. Ma il problema, secondo me, più rilevante è proprio questo dei genitori. Io non so come la pensa la dottoressa Baldriga, però il problema dei genitori significa che c'è evidentemente una lacuna gravissima. Noi che abbiamo anni in più è una responsabilità aggiuntiva nei confronti dei valori e delle idee da trasmettere ai ragazzi, o no? No, è proprio così. Purtroppo, tra l'altro, questo episodio drammaticamente evidenzia, forse magari sarà l'occasione per parlarne finalmente in un modo molto serio, anche in campo più allargato di quello strettamente scolastico, di conflitto tra la scuola e le famiglie. Cioè, molto spesso parliamo sempre di gruppi e non della maggioranza, perché poi la gran parte dei genitori, in verità, come dire, ha ovviamente espresso certo preoccupazione per il fatto, ma come dire, non potevano che considerare ovvio l'intervento delle forze dell'ordine. Ma il problema è che ci sono genitori che si pongono nei confronti della scuola sempre con un atteggiamento conflittuale. Ma erano tanti questi genitori? Erano tanti? Cioè, guardi, ci faccia capire. Non molti. Ma cosa dicevano? Cioè, perché erano contro questo? Perché la scuola, a loro giudizio, deve essere un luogo. Intanto vige una convinzione di ipergarantismo. Guardi, io devo fare un parallelismo necessario. Mi è sembrato di rivivere la situazione delle occupazioni scolastiche, altra vicenda nella mia scuola molto frequente, quest'anno nuovamente all'attenzione della stampa nazionale, durante le quali appunto non si pensa sia minimamente immaginabile che le forze dell'ordine possano entrare, neppure dopo 2 settimane di interruzione della didattica e del semplice servizio pubblico, secondo il principio che all'interno della scuola tutto può avvenire senza intervento delle forze dell'ordine. Allora, aver trasmesso questa convinzione poi si paga ovviamente con quello che è accaduto l'altro ieri. L'extraterritorialità, roba da matti. Esatto, esattamente, sì. Roba da matti, ha detto bene. No, perché guardi, oggi Libero, per esempio, dedica una pagina a questo, Davide Giacalone, a dire: spacciano droga a scuola, i mandanti sono i genitori. Dice proprio quello che stiamo dicendo, cioè a dire che i veri colpevoli di questa situazione sono i genitori. Lei colpevolizza più i ragazzi o più loro? Beh, io devo dire, sono sconcertata per il comportamento dei genitori, anche di una parte dei ragazzi, perché non parliamo di bambini, ma di 16enni, 17enni, 18enni. Poi guardi, in tutta questa vicenda si è anche rivelato abbastanza chiaramente che ci sono degli interessi esterni molto forti, cioè ci sono, come anche nelle occupazioni scolastiche, interessi, io li definirei veramente eversivi, perché qui c'è un antagonismo politico estremista molto pericoloso che cerca di attecchire nelle scuole quindi se ne è voluto fare un caso proprio per interessi che poi nulla hanno a che fare con il liceo Virgilio o con il caso specifico. I genitori, guardi, il problema è che le scuole sono l'istituzione più a portata di mano. Paghiamo ogni giorno le frustrazioni di gente che non crede più nelle istituzioni e nello Stato, e forse la scuola è veramente più che mai il vero presidio dei principi di legalità e di democrazia. Per questo abbiamo bisogno di essere aiutati. Quindi io veramente vorrei che si evidenziasse, si sottolineasse questo grande bisogno della scuola di essere tutelata proprio come istituzione pubblica. Sì, non attaccata frontalmente. Non attaccata, in modo pregiudiziale, tra l'altro. Quindi, insomma. E va bene, insomma, queste Posso sono fare i fatti. Un'ultima domanda secca, certo. Personale, dottoressa Sonde. Quanto è pesante come dirigente scolastico direttamente per a sentirsi, cioè, uno avrebbe l'idea, arrivano le forze dell'ordine, beccano reati di spaccio in flagranza, non dico che le famiglie dicano grazie per chi ci aiuta a far stare più sicuri i nostri ragazzi, però invece le chiedo: che cosa si trova a essere contestati brutalmente perché avviene una cosa di questo genere? Cioè, uno entra in crisi con se stesso? Come reagisce? Ma no, in questo senso no, perché io sono animata da un fortissimo senso dello Stato, quindi insomma in questo non mi sento colpita né nel mio ruolo né nella mia persona. Certo, è un peso grandissimo perché, ripeto, è una battaglia, una guerra più grande. Vale la pena farlo per il bene dell'Italia, perché difendere la scuola significa difendere il paese. E allora devo dire, a forte convinzione, questo almeno le dà una mano. Sì. Intanto noi la ringraziamo molto, Irene Baldriga, voglio ricordare, appunto, dirigente scolastico, preside, come definisco io, ma impropriamente, al Virgilio a Roma. Grazie davvero. Grazie Oscar. A voi. Oscar, sai che adesso l'argomento lo riprenderemo, però guarda che sul canone c'è Morena, che sì, credo ti chiami, da Milano. Morena, sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, vi ascolto sempre, mi piacete molto. Allora, velocemente vi spiego la situazione. Io vivo in un appartamento che è residente, cioè nel quale sono residente, sia io che il mio compagno, a Peschiera Borromeo, per capirci. Vabbè, non ci dica anche l'indirizzo, Morena. No, vabbè, tanto è grande. Vabbè, tanto, voglio dire. Allora, lui invece ha un appartamento di sua proprietà, nel quale vive mia figlia, che è solo figlia mia, in un altro comune. Sì. In quell'appartamento lì dell'altro comune suo, di lui, c'è un'utenza alla quale che è sua di lui, cioè intestata a lui. Lui non è residente lì. Sì. Ovviamente lì, vivendoci mia figlia, lei ha la televisione, eccetera, eccetera. Yeah. Quell'appartamento, cioè, lei teme di dover pagare due canoni. Parliamoci chiaro. Io voglio capire cosa può succedere. Lei dovrà compilare il modulo con grande chiarezza, perché il punto è che si paga un canone per famiglia anagrafica intestataria. Questa è la formula, spero sia chiaro cosa vuol dire. Cioè, i componenti della famiglia, secondo l'anagrafe, un canone per famiglia e un canone per famiglia che deve coincidere con l'utenza elettrica. Se siete sparsi in più abitazioni ma non coincide la famiglia anagrafica, allora più canoni, ipotesi A. B, se componenti della famiglia anagrafica invece in precedenza erano diversi da quello che oggi ha l'utenza come intestatari del canone, bisogna comunque mandare la formula alla RAI, la lettera alla RAI, perché altrimenti ve ne arrivano due. E quindi in questo caso però, Oscar, arrivano due, perché se ho capito bene il figlio della signora non è il figlio del esattamente del compagno, e quindi la figlia, bisogna che il compagno mandi l'avviso scritto, la diffida scritta all'agenzia delle entrate, che trovate, ripeto, sul sito. Comunque, cara Morena, lo scoprirà a luglio. Ecco, quando sarà un bel balletto. E auguri alle impugnative. No, impugnative ci saranno. Pacchi di centinaia, di migliaia, e noi daremo gratis la nostra assistenza con grande felicità. Comunque, noi tra poco, dopo la pubblicità, torneremo sul tema droghe, ma anche, siccome ci sono anche degli ascoltatori, per esempio ci chiedono: ma il Cardinal Giannino cosa ne pensa della proposta di D'Alema di dare l'8 per 1000 anche ai musulmani? Però ce lo dici tra poco. Tra poco, Oscar, perché tra io sarò poco. A proposito, invece tra sarò poco, a favore di un'altra cosa. Sorpresa, sorpresa. Tra poco. Mattino. Va bene, caro Oscar, eccoci qua. Siamo tornati. Allora, lo vogliamo sentire D'Alema? In diretta, noi siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Vogliamo sentire D'Alema? Come no? Sentiamo D'Alema. D'Alema, sentilo qui, D'Alema. Lo sceicco D'Alema. No! Io vorrei che queste persone si sentissero a tutti gli effetti cittadini europei. Preferirei che potessero costruire le loro moschee come si costruiscono le chiese, cioè con il denaro pubblico. In Italia c'è l'8 per 1000 per la Chiesa cattolica, ma c'è 1,5 milioni di musulmani che non sono riconosciuti. L'8 per 1000. Sempre il danè pubblico. Il danè pubblico. Vabbè, D'Alema dovrebbe sapere meglio di tutti che il meccanismo dell'8 per 1000 è con le confessioni che scrivono intese, no? Intese significa nei confronti di gerarchie cattoliche, eccetera, eccetera. Naturalmente, ovviamente, noi abbiamo l'intesa rafforzata concordataria con la Chiesa cattolica, poi ce l'abbiamo con gli evangelici, ce l'abbiamo con le comunità ebraiche e così via. Quindi non è la stessa cosa per ovviamente l'Islam, per così dire. Quindi lui ci sta proponendo di fare delle intese con le diverse associazioni che rappresentano gli islamici. Sì. Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, non è mai il primo a saperlo, non è la stessa cosa, quindi non la vedo come una percorsa, come una proposta agibile. Certo, fa effetto pensare che la risposta al terrorismo jihadista stia in questo, secondo più moschee, me. Più moschee e finanziate. E finanziate con i soldi pubblici. Io dirò invece che sono, a questo proposito, sempre sull'8 per 1000, mi ha colpito. Io sono molto favorevole a una proposta firmata, pensa un po', da Civati e altri civatiani. Ah, l'ho letta! Quella sì, è sì, una sì, cosa sacrosanta, perché sì, quella dice: basta con i favori fatti moltiplicando gli effetti della scelta fatta dai contribuenti in piena libertà a favore dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Però tu sai, caro Alessandro, che noi ci abbiamo un trucchetto favorevole a loro, perché non è che diciamo quanto siete a dare in proporzione i vostri soldi a dircelo, sono circa il 37% dei contribuenti. Dice: bene, allora vediamo il 37% del monte contributi dell'8 per 1000. No, noi applichiamo le scelte fatte anche al monte inoptato di chi non le ha fatte, e quindi diventa l'82% del monte contributi, cioè invece che 400 milioni gli diamo 1 miliardo alla Chiesa. Dice Civati: ma perché non deve valere solo la proporzione esatta di chi esprime le sue facoltà, le sue libertà di scelta? Secondo me ha ragione Civati. Ha ragione. Ma guarda che su questi temi, sia la droga che abbiamo affrontato prima, ma anche sull'8 per 1000, ci chiama Franco da Parma, per esempio, mi dicono che vuole intervenire proprio sulla questione dell'Islam. Franco, buongiorno. Buongiorno. Sì, sulla proposta di D'Alema, sì, io volevo far presente una mia esperienza personale. Anni fa mi sono interessato, oggi è Venerdì Santo, si possono anche affrontare argomenti un po' tristi, mi sono interessato dei funerali da realizzare per una persona islamica, era venuta a mancare, per una persona che conosco, persone bravissime, e senz'altro, e allora mi sono informato presso le agenzie di onoranze funebri, sì, e mi hanno detto, e questo si può verificare poi su internet, che le agenzie nostre di onoranze funebri non si occupano di islamici, perché gli islamici, ma non gli estremisti che mettono le bombe, le persone normali, sì, non, la salma di un defunto non può essere toccata da persone non islamiche, quindi sì, se noi cristiani in questo momento di pietà che per tutti i nostri, non solo sacerdoti, ma anche per Totò, il momento della morte è un momento dove non ci sono più differenze, dove sì, non ci sono più barriere. C'è Franco, solo la pietà. Può chiudere per cortesia, perché il tempo fugge. Lei sta facendo un discorso molto dotto. Ma io chiudo, quindi... cioè, è un argomento però sensibile, mi rendo conto che la metta in imbarazzo, mi rendo conto, però il discorso è che per gli islamici noi siamo impuri, e quindi qui voleva arrivare dopo questa lunghissima premessa. Impuri? Ah, ecco, perfetto. Ce lo spiega D'Alema, ce lo spiega. Guardi, Franco, ecco, lei poteva dirlo in questi 15 secondi, e tra l'altro sarebbe stato molto più efficace. Glielo dico proprio come forma di comunicazione. Se ce lo diceva così, noi per gli islamici siamo impuri, e quindi D'Alema, perché finanziamo chi ci considera un impuro? Senta che bella questa frase, tonda e fantastica. Va bene. Scusa Oscar, no, perché no, io vedo il clock e sono disperato. Avanza. Guarda che ci ha chiamato anche Massimiliano da Roma, che mi dicono essere un genitore del Virgilio. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Di un genitore, buongiorno, di uno che va al Virgilio. Sì, sono genitore di uno dei ragazzi del Virgilio, buongiorno. E no, volevo semplicemente dire una cosa, che l'intervento della dottoressa Baldriga racconta un po' con ipocrisia quello che è successo. Ipocrisia? Perché, sì, è ipocrisia, perché la persona che dice di credere nelle istituzioni e poi non utilizza quelli che sono gli strumenti primi in una scuola per risolvere un problema del genere, perché nessuno di noi è favorevole allo spaccio, e insomma, se c'è qualcuno che la pensa così, insomma, assolutamente nessuno è favorevole allo spaccio, è semplicemente che lo shock per i ragazzi vedere i carabinieri che entrano e che mettono al muro dei ragazzi come loro, trasformandoli in martiri, e quindi non cioè, agli occhi dei ragazzi diventano dei martiri, quando invece dovrebbero semplicemente venire vissuti come punizione. Allora la scuola ha degli strumenti, no? Al dialogo, alla convocazione dei genitori, alla possibilità di sospendere il ragazzo, di espellere il ragazzo, di bozzarlo. Quanti sono i passi che non sono stati fatti? Però Massimiliano, cioè, sì, capire, dialogare, eccetera, ma nel momento in cui uno spaccia ed è recidivo non va arrestato? Sì, assolutamente sì, ma ecco, può essere fatto fuori dalla scuola, può essere espulso dalla scuola, perché dobbiamo farlo in questa maniera così plateale e rinunciando comunque agli strumenti plateale? Scusa, uno spacciatore va arrestato? Ma sì, no, e questo era di 19, ma, non so, Oscar, tu che ne pensi? Io, sono un po' io mi sono trovato negli anni esattamente lo stesso. Noi abbiamo parlato ieri, Sandro, scegliendo il tema, perché a me è capitato anni fa di trovarmi di fronte a osservazioni di genitori esattamente analoghe a quelle dell'ascoltatore, che io ringrazio, perché secondo me queste osservazioni spiegano perché il più dei genitori è intervenuto non a tutela o a favore dello spacciatore, ma perché ritengono che nelle scuole interventi di questo tipo siano da evitare, perché ci sono i ragazzi da tutelare, perché sono interventi troppo traumatici, perché... Ecco, io non la penso così, ma so che molti la pensano così. Io credo che ai ragazzi, devo dire, dai 15 ai 18 anni, questa è un'opinione che non rivolgo all'ascoltatore, ma penso io, molti li trattano ancora come se fossero dei bimbi da tutelare. E io invece mi pongo il problema un po' contrario, se non ci sia in questo un po' di eccessiva condiscendenza. Però io credo che Riccardo Maggi dei Radicali, che ci sta ascoltando, buongiorno Riccardo Maggi e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Invece non sia molto favorevole a questa azione della polizia, o sì o no? O... Ma no, ma perché Riccardo ha un'opinione diversa sul tema in generale. Sul tema in generale, certo, che sul tema, che è quello della liberalizzazione, della legalizzazione. Se allarghiamo un po', insomma... Che è chiaro che la preside cosa deve fare, c'è una legge, secondo me è una legge sbagliata, ma ora ci arriviamo. Se allarghiamo un po', dobbiamo dire che insomma, il mercato delle droghe illegali è il terzo mercato nel mondo dopo quello dell'alimentare e quello dell'energia, ed è un mercato controllato completamente dalle organizzazioni criminali. Credo che qui si trattasse di un sequestro di cannabis. Sì. Se parliamo di cannabis, riguarda il consumo di cannabis il 20% della popolazione italiana tra i 15 e i 34 anni, quindi quella fascia lì che va al liceo Virgilio, e la Direzione Nazionale Antimafia ci dice chiaramente nella sua relazione che virgolette, il totale fallimento dell'azione repressiva e la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione di cannabinoidi. 2 miliardi di euro l'anno per il contrasto al traffico di sostanze illecite solo nel nostro paese. Forse qui va fatto un ragionamento più ampio, che poi può arrivare a risolvere anche le situazioni specifiche come quelle quotidiane, come quelle del Virgilio. Però stante che voi no, certo, voi siete per la legalizzazione, questo si sa, ma stante queste leggi trova giusto il fatto che sia stato fatto questo blitz, oppure il genitore diceva di no? Ma non, lo trovo letteralmente inutile. Inutile. E lo trovo anche al limite controproducente. Nei paesi dove c'è un approccio diverso basato sulla informazione anche fatta nelle scuole, quindi sulla riduzione del danno, sull'informazione sulle singole sostanze, noi abbiamo un crollo del consumo di sostanze stupefacenti con tutto quello che ne consegue, con un crollo di arresti, quindi di sovraffollamento delle carceri, quindi poi fino ai morti per overdose. Questo ci dovrebbe insegnare qualcosa, ce lo dicono i paesi come il Portogallo, dove è stato fatto un cambio lì non di legalizzazione, semplicemente di decriminalizzazione. Esatto, di penalizzazione. Io devo dire la verità, io sarei a favore di un fortissimo impegno pubblico nelle scuole, di campagne di informazione nel corso delle lezioni, per illustrare gli effetti, non solo dei cannabinoidi, soprattutto della cocaina e di tutte le altre droghe sintetiche. Io dei casi di cui mi sono occupato, era a Roma, erano distribuzioni massicce di dosi di coca a prezzo bassissimo per procurarsi clienti nei licei del centro di Roma. Su questo la scuola è ancora un po' troppo ipocrita, e troppi genitori pensano, ma no, se glielo spiegate poi è come dire ai nostri figli fategli venire la voglia, e ignorano che c'è gente che gli va a dare le dosi in mano per fidelizzarli al mercato del criminale. Questo è il punto. Il poliabuso e il passaggio da una sostanza all'altra e la confusione tra le sostanze è tipico dei mercati illegali. Esatto. Noi immaginiamo, con una proposta di legge che abbiamo depositato proprio la settimana scorsa in Cassazione, una legge di iniziativa popolare, di regolamentare la commercializzazione della cannabis, con anche l'indicazione ad esempio del contenuto di principio attivo. Cioè, io devo sapere, come sì come quando compro le sigarette light, oppure sì, medium, oppure le più forti, devo sapere esattamente cosa acquisto e cosa compro. Sulle sostanze diciamo, le cosiddette droghe pesanti, anche questa è una distinzione sbagliata perché bisogna andare poi nello specifico delle varie sostanze, c'è da fare un approccio per cui prevalga non la criminalizzazione ma il trattamento sanitario di chi ha un problema di dipendenza e una presa in carico sociale. Anche questa è la direzione opposta rispetto al proibire e al criminalizzare. E questa è una questione che ormai, come dire, è diventata una questione anche di bilanci, oltre che di fallimento a livello planetario della lotta. Ci stanno arrivando gli Stati Uniti. E che rimane molto dibattuta e noi dibatteremo ancora. Oscar, però qui nel ringraziare Riccardo Maggi dei Radicali dobbiamo fermarci. Io però personalmente ringrazio anche la dirigente scolastica che almeno ha deciso di non far finta di non vedere. Perché secondo me è la cosa peggiore. Allora, noi lunedì non ci siamo, non ci invece siamo. Non ci sono i giornali. Non io ci sono ancora oggi pomeriggio, domani mattina, pensa, però poi noi riprendiamo invece con attenzione martedì. Martedì mattina. Ah, martedì. Vi lasciamo con questi auguri, certo, meravigliosi. Ciao. Ciao.